ma la voce a me naggio dragata a fermi, io vorrei vedere di chi ti ha battato una trecciata. Rendi proprio l'idea, grazie. Ma io sono così greco, non so così indicare i mussoggi, ma se faccio una tazzita, mi vedi di scintilli. Ma è meglio così, quando fai il vino buono è bello, quando fai il vino male è bello. No, quando arriva così, se finimmo la bocca, una casera, la porta, non c'è spugna. Dimmi se è quale, la casa lo dite, non dai. Ehi, no, che mi bloccano, ma vai in giro pure si vede tutti doppi. E mi tocco di voi, e mi trovo. Una di essi mando, te lo ricordi Paolo? Sì, no, che fa di nato al cespuglio tutti i piloni. Ma nella cattiva tutta la notte, tu ne ha sul rango. Non mi dire fatto tu. Si talmente era l'imbriachiera, tutta la notte che a Mazzanini mi ha incitato a chi l'ha curato un miglio, ma il cuccio tra i cagliari leva, mi è tutto graffiato, era, era con l'imbriaco l'indomani. Ti rugonto, e se cosa mi do, su baracco? Birra, vino, liquori, non lo sai quando dice, la porta la fame in campeggio. Di lì a Portoferro e una gravigliata di gambaroni bocchito e cos'è che tu vedi per gli stranieri cosa essere quello e dei gambaroni ma tu non rimani va via lo grembiule la reginetta in capo e mi domandava niente da sopra da più in alto perché noi eravamo giù verso la piaggetta. A me cos'era Ruscelli, a chi non lo vede di me? Gambaroni, mia gambarone canta un braccio, ma tu non hai leggera magna, magna dell'anguria. E pure chi sei buona, sei fresca. Ma chi ti mangiava l'anguria a baffarsi le figlie? C'era in campo, però se invece mi mangio le gambarone gli andammi in giro in campo. Io lo credo. Ce ne sono tanti, no? Che fanno il sacchetto tutto l'anno e poi per farsi i soldi, per farsi i viaggi. Sì, ma poi vedi, mangiano i zindria sulle rocce lì, dugnosi, tutta la frutta, Eva, sai. Ma allora quando mi chiama a me, cura graviglia, bicchetti, salsiccioli, mazzetta, gambaroni, che li fa la papà, ma un po' ci si bugia lì. Ma com'è che ci sta domanda a te? Più di una volta, ma quanto va anche a quei marocchini che passavano, a chi ci vedeva Giuseppe Rinaldo? Diceva, fare la cosa, dammi un piatto dai chili, sei una tazza di vino per la breca, e li buonia la salsiccione, il piatto, un piatto di pasta asciutta, bene, un po' da dire, mi la a mangiare sempre, senza mangiare non ci devo mai mandare, c'era orario di mangiare. Si bruciava, cagliano i burgiori, i chivi, mangiavano i pizziani, ma tanto c'era. E infatti, perché noi abbiamo fatto sempre così, eh? Una volta questa donna che stava vendendo sempre di cuore, si è venuta a Placamoane, stavamo mangiando, eravamo sotto l'ombrellone e cose, l'abbiamo fatta a sedere, l'abbiamo fatta a mangiare, a bere, e ci ha raccontato tutta la sua vita, mi ha detto che lavorava in una fabbrica in continente, e adesso lì è in ferie, quando era in ferie veniva qua a vendere, capito? Ma parecchio, quando era l'orario di mangiare, pure due, tre, quattro, che veniva di chi, a fare voi piatti abbastanza, la mia c'è, intanto l'abbiamo già mangiata, l'ha già servita, era da fare, una fettina, che ci ribella, li fate abusare, ma un bacio ci la fanno i priati, ci vende niente, braccialetti, l'occhiali. ma basta parte noi anche ne volevamo, anzi. Ma di volte ripartiamo i ribanino, le spianate, sai, qua sotto la mangia stasera. Intanto poi a casa la sera non ne mangiava nessuno, ma la pazzerusa l'abbiamo sempre data. Oh, è un peccato, per buttare la roba dalla rugata per scattare a un cristiano. Ma no, magari, in effetti è così, in effetti è così. Ma loro non mangiano la carne di maiale perché non sono musulmani. Si mangia a te, vecchissimo, il conosce il stato di Sassari Vecchio. Musulmano o non musulmano si mangia a me. Maribu. No, non me lo ricordo il nome. Per cambiare la marmola. Ma si può dire più Sassari Vecchio che negro. Quella va, i barri grossi, si vende la roba platanona. No, è il magro, è alto. E poi c'è la compagna che fa le treccine in spiaggia. Allora non è lui. Ce n'è anche uno che lo chiamano Barrelibo Funito, non so se lo conosci. Già, io il figlio conosco. Quindi è uno che è proprio, sa tutto il dialetto sassarese, si ritiene negro. Chi c'è più sassarese di me? Ehi, ehi, ciao Sossi. Imparano molto in fretta. Sono tutti che la mangiano io. Già, quindi so che mangiano e non li la funzionano anche qui. Importante che mangiano. No, per di più mi scappava. Boh. Sta Gian Maria. Chi è la Gian Maria? E la ora, ma ci ha rivisto. Vedo che c'è la doccia bella, che c'è quel mangiare. E la doccia attacca, attacca, fa fare il braga. C'è un bello braccato e va a macchinone. E ho giocato tanz'ora, ma mi gioco in buccelli, le pavette fresche a fresche, e si tenna le tenna, non mi gioco mai niente. C'è un padre a di pasta, tra il pigliero e la fava, a ma di pasta. Comunque buonasera, mi sentito, è solo sì. No, è compagnia con Gianni, vedete mettere se spostato. No, sono qua. Ah, qua sì. Ripri. Ehi, ehi, dai. Ci stanno gli avversari qui. Cosa? Già. Sì, ja. Cosa hai detto? Sono qua, adesso. C'è Gian Maria, è tratto Gian Maria. Gian Maria. Ha detto Gian Maria? Già, vuol dire che c'è spostato. Gianni. Gian Maria. Hola? Gianni, ci sei? Hola? Ha detto Gian Maria? Gianni! Avanti! Graziano, Graziano, avvero, avvero! Eia, avvero! E beh, Gian Maria! Gianni! Hola! Gianni! L'hanno arrestato Gianni! Poverino, senza fare niente!